una stanzurella fredda e scura, ad una volta incetra se va sole. No stengo, solo tengo una paura che a poco me consuma cor. Paura che mi struie malattia, senza vede ch'io a Napule, senza vede ch'io a te. Vorria tornà tu te, che non ha sola Napule mia, per te sentire cantare con mille mandoline. Furia tornando te con mano vuota, amore mio, e te poteva sa e me senti abbraccia croce. Kumbaya, my lord. this world you made for the love that will never fade, for a heart beating with joy, for all the dream, for all we feel. Kumbaya. seres doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Una pala laica y un gran amor. escribo en un papel de esas noches de sombra y luz. El recuerdo fiel escribo en un papel de esas noches de sombra y luz. Cuando ya la luna se va a dormir y Moscú se viste de sol, llevo aún en mí los versos que escribí a la luz de la luna azul. Esa canción a la luz de la luna azul. Thank you. Moskva, down to Gorky Park, listen to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. So close, like brothers. The future's in the air. I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. 사랑하는 돈 안에 하이리 또 하나 있지 바람 부는 벌판에 손이 젖고 나는 외롭지 않아 구르나 손이 하나 떨어지면 눈물 다 그리다는 가슴 가슴마다 햇살은 다시 떠오르네 나 영원의 희변지 하늘 우리들 위 사랑으로 도구는 곳에 손을 내밀어 밝혀 Volver a ser niños otra vez.

像是雪莲爆红透，开不完春柳春花满不完柔，随风洒窗风雨黄昏后，忘不了是因错意烟不去啊，与你轻花也满后，烧不尽情你花中送，山头太美头爱不明灯笼，不足的金山银银，流不断的绿水悠悠，呀呀，这是最不足的金山银银，流不断的绿水

che il tempo ci ritrovò. Toccò il naso ed io sorrisi. Io l'abbracciai ed il mondo girò di più. E intorno a noi ogni 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术。